Capitolo 11. Esperimenti. È il primo di giugno. Domani i King partono per il mare e io sono libera. 3 mesi di vacanza, esclamò Meg, rincasando dopo una giornata assai calda e trovando Jo distesa sul sofà, insolitamente stanca, mentre Beth le toglieva le scarpe impolverate e mi preparava una limonata per dissetarle tutte. E la zia March è partita oggi, esultate, disse Jo. Ho avuto una gran paura che mi dicesse di andare con lei. Come avrei fatto a rifiutare? Ma Plumfield è allegra come un cimitero, lo sapete bene, e avrei cercato di scusarmi. C'è stato un grande affare per spedirla alla vecchia zia. Io facevo ogni cosa presto, ma per questo appunto ogni volta che lei apriva bocca tremavo. Vedendomi tanto buona, tanto servizievole, temevo che non le riuscisse di rinunciare alla mia compagnia. Che paura, finché non l'ho vista bene installata in carrozza. E anche allora, proprio all'ultimo istante, quando già la carrozza si muoveva, me ha messo fuori la testa e tremo ancora. Mi dice: Josefina, non vorresti? Non ho ascoltato altro. Ho voltato le spalle e vergognosamente sono fuggita. Di corsa, vi dico, e alla prima cantonata ho svoltato. Soltanto allora mi sono sentita al sicuro. Povera Pinocchia, è arrivata a casa con una faccia come se avesse alle calcagna un orso, diceva Beth, stringendo fra le manine i piedi della sorella come una mamma col pupo. È un vero tapiro, quella zia, eh? Chiese Amy, assaggiando la limonata con aria di fine buongustaia. Vampiro, vorrei dire, commentò sottovoce Joe, ma non fa nulla, con questo caldo chi ci bada ha certe pedanterie. Cosa farete con tanti giorni di vacanza? Chiese Amy, cambiando discorso. E Meg, dalle profondità della sedia a dondolo, io voglio alzarmi tardi e non far niente. Tutto questo inverno mi è toccato saltar giù dal letto presto e lavorare per gli altri. Adesso mi voglio riposare, voglio godermela a piacer mio. Fece Joe. La vita della marmotta per me non fa. Mi sono preparata un mucchio di libri alto così e allieterò i miei giorni andandomeli a leggere sul melo, dove i rami si biforcano. Questo si intende quando non mi girerai il... Non dire parole volgari! Supplicò Amy per prendersi una rivincita del tapiro. Oh, lasciami un po' dire a modo mio. Lori è tanto distinto anche lui, ma senza posare... Respinta ancora con perdite, Amy si rivolse a Beth. Per un po' di giorni siamo senza studiare anche noi, Beth. Riposiamoci come loro ti va? Perché no, se la mamma non dice nulla. Io ho certe romanze nuove da imparare e le mie bambine da mettere in ordine per l'estate. Ne hanno tanto bisogno e non so cosa mettergli. Ci dai il permesso, mamma? Domandò Meg, rivolgendosi alla signora March, che stava a cucire nell'angolo della mamma, come lo chiamavano. Provate una settimana e vedete se va. Secondo me non arriverà sabato sera e già vi sarete convinte che sempre trastulli e mai lavoro è brutto quanto sempre lavoro e mai trastulli. Oh no, mamma, sarà delizioso, ne son certa, disse Meg sorridendo. E adesso propongo un brindisi, come dice la mia distinta amica Sairy Gamp, sempre folleggiare e batter la fiacca, esclamò Joe alzandosi col bicchiere in mano mentre le altre riempivano di limonata il proprio. Vuotati e deposti i bicchieri, cominciarono l'esperimento con l'oziare tutto il resto della giornata. La mattina dopo, Meg non si fece vedere fino alle 10. La sua colazione solitaria non sapeva di nulla. La stanza era triste e in disordine perché Joe non aveva messo i fiori nei vasi, Beth non aveva spolverato e da ogni parte c'erano sparpagliati i libri di Amy. L'unico luogo dove si stava bene era il cantuccio della mamma, che aveva l'aspetto degli altri giorni. Meg vi si rifugiò a riposarsi e a leggere, ossia a sbadigliare e a pensare che belle vesti da estate si sarebbe fatta col salario riscosso allora. Joe la mattinata la passò sul fiume con Lori e il pomeriggio a leggere e bagnar di lacrime il vasto mondo lassù sul melo. Beth cominciò a cambiare di posto ogni cosa nello sgabuzzino dove alloggiava la sua famiglia, ma si stancò prima di arrivare a metà e lasciò tutto sottosopra per mettersi a suonare il piano, ben lieta che non aveva da lavare i piatti. Amy prima mise in ordine la sua pergola, poi indossò il vestito più bello, si lisciò i capelli e si mise a disegnare sotto i suoi caprifogli nella speranza che qualcuno la vedesse e si incuriosisse di sapere chi era la giovane artista. Siccome però non capitò altri che un moscone, il quale a dire il vero esaminò il suo lavoro con grande interesse, Amy finì con l'andarsene a passeggio, fu sorpresa da un acquazzone e tornò a casa tutta sgocciolante. Allora, del tè si comunicarono i rispettivi risultati e all'unanimità dichiararono che era stata una giornata magnifica, un po' lunga, questo sì. Meg, che nel pomeriggio andò a fare spese, tornò con un taglio di mussolina azzurra che era un amore, ma si accorse troppo tardi che la tinta non era solida e quindi il vestito non si poteva lavare. Tale infortunio la rese alquanto nervosa e irritabile. Beth era in pensiero per il disordine in cui aveva lasciato il suo sgabuzzino e per la difficoltà di imparare due o tre romanze in una volta. Amy piangeva il vestito sciupato perché era invitata da Katie Brown l'indomani e così non aveva niente da mettere. Ma questo non erano che inezie e tutte e quattro assicurarono alla mamma che l'esperimento andava benissimo. Ella sorrise, non disse nulla e con l'aiuto di Anna sbrigò il lavoro da esse trascurato. Così tenne la casa in ordine, tutto l'ingranaggio domestico funzionò senza intoppo di sorta. Ciò non toglieva però che quel sistema di riposarsi e godersela producesse un curioso stato di disagio e di malessere generale. Le giornate si allungavano, il tempo era di una variabilità inusitata per quella stagione e questo si ripercuoteva sull'umore delle persone. Tutte si sentivano irrequiete, agitate. Il diavolo approfittò del loro ozio per mettere in ogni testa qualche idea o ispirazione poco felice. E così avvenne che Meg smise, sì, il lavoro di cucito, ma trovando le giornate interminabili si diede a modificare e a rovinare i suoi vestiti per rifarli meglio ispirandosi a quelli di Annie Moffat. Joe, a forza di leggere finché le bastava la vista, cominciò ad averne fin sopra la testa e divenne così irrequieta che persino il buon Lori ebbe un battibecco con lei. E lei arrivò a un punto tale di depressione e di disperazione da rimpiangere di non essere andata con la zia March. Beth tirava innanzi discretamente perché lei dimenticava spesso il patto di sempre trastulli e niente lavoro e spesso e volentieri tornava alle antiche usanze. E tuttavia c'era in quell'atmosfera qualche cosa che aveva un'influenza cattiva anche su lei. E più di una volta la sua tranquillità solita se ne andò, tanto che un giorno giunse al punto di maltrattare la povera Giovanna, la più mal ridotta delle bambole, e a chiamarla Spauracchio. Peggio di tutte stava Amy, la quale, abbandonata dalle sorelle alle proprie risorse, a badare ai fatti propri e divertirsi come poteva, si accorgeva che le sue risorse non erano granché e la compagnia del suo signorio, del quale aveva un'opinione tanto alta e tanto importante, era una compagnia poco divertente. Lei non amava le bambole, le fiabe per lei erano roba da bimbi e non poteva stare sempre a disegnare. I tè e le gite poco giovavano e se non c'era chi si dava la pena di organizzare e di dirigere. Se ci fosse una bella casa con tante ragazze simpatiche e se si potesse viaggiare un po' l'estate, sarebbe delizioso, ma dover stare a casa con tre sorelle egoiste e con un ragazzo più grande di me è una cosa che stancherebbe la pazienza di Boz. Così spropositava la signorina inopportuna dopo parecchi giorni dedicati ai piaceri, a rodersi da sola e ad annoiarsi. Nessuna di esse voleva ammetterlo, ma erano arcistufe dell'esperimento. Il venerdì sera ognuna confessava a se stessa che era ben contenta che una settimana era quasi passata. Perché la lezione facesse più effetto, la signora March, fine umorista, volle che l'esperimento fosse completo e diede vacanza ad Anna affinché le ragazze conoscessero tutte le delizie del sistema. Il sabato mattina, quando si levarono, il fuoco in cucina non era acceso, la colazione non era pronta e la mamma non si vedeva. «Oh, signore, che cosa è successo?» esclamò Joe, guardandosi attorno sbigottita. Meg corse al piano di sopra, poi tornò subito abbasso. Appariva sollevata, ma un po' stupita e anche vergognosa. «No, non sta male la mamma, solo è molto stanca e dice che se ne vuole stare un po' tranquilla in camera sua e che noi ce la caviamo come possiamo». È una cosa un po' strana da parte sua. Non si direbbe la mamma, ma dice che ha avuto una settimana un po' dura e che non dobbiamo brontolare noi, ma arrangiarci come ci riesce. Mica tanto difficile. Mi piace anzi l'idea. Morivo dalla voglia di avere qualcosa da fare, disse Joe. Voglio dire un gioco nuovo, si affrettò a correggere. In realtà fu davvero un gran sollievo per tutte avere un po' di lavoro. E ci si misero di buona voglia. Ma ben presto si accorsero quanto era vero il gran proverbio di Anna: far andare una casa non è uno scherzo da nulla. Nella dispensa c'erano provviste in abbondanza e mentre Betty e mi apparecchiavano la tavola, Meg e Joe prepararono la colazione e tutte e quattro, attendendo a tali faccende, si stupivano delle persone di servizio. Come mai trovano pesante il loro lavoro? La porterò anche alla mamma un po' di colazione. Lei veramente mi ha detto di non occuparmene perché ci pensa da sé. Meg, seduta a capotavola dietro la teiera, si dava un'aria solenne da mater familias. Perciò, prima di far colazione loro, fu preparato un vassoio e portato su con gli ossequi della cuoca. Il tè era rimasto a bollire nell'acqua e perciò era amarissimo. L'omelette era bruciata, i biscotti pieni di bicarbonato, ma la mamma ringraziò e non rise finché Joe non fu uscita. Povere piccine, se la vedranno brutta, temo, ma non gli farà male, anzi molto bene. Pensò mentre tirava fuori la colazione ben preparata di cui prudentemente si era munita. Quella delle figliole la fece scomparire senza tracce per non farle impermalire, piccolo inganno materno di cui avrebbero dovuto esserle riconoscenti. Di sotto, molte lamentele e disperazione del capocuoco per l'insuccesso. Joe la consolò. Oh, non fa niente. Al pranzo ci penso io. Lasciati servire. Tu fai la signora. Lavati le mani, ricevi gli ospiti e dai i tuoi ordini. Il male era che di culinaria Joe ne sapeva ancora meno di Meg. Ad ogni modo la sua gentile offerta venne accettata di buon grado. Meg si installò nel salotto, che mise in ordine col procedimento sommario di spingere la spazzatura sotto il sofà e chiudere le imposte per risparmiarsi la fatica di spolverare. Joe, piena di fede nella propria capacità e col desiderio di far la pace con Lori dopo il battibecco, andò subito a deporre un biglietto alla posta per invitarlo a pranzo. Faresti meglio, disse Meg, quando fu informata di tale atto cordiale ma arrischiato, a sapere cosa potrai offrire prima di invitare la gente. Oh, carne in scatola e tante patate. Poi farò gli asparagi e l'aragosta per la buona bocca, come dice Anna, e insalata di lattuga. Non so come si fa. Ma nel libro c'è scritto: panna con fragole per dessert e infine il caffè. In un pranzo chic ci vuole sempre il caffè. Oh, non tanta roba, Joe. Tu non sai fare il biscotto o i canditi di melassa che riescano mangiabili. Io di questo pranzo me ne lavo le mani. Lori, te lo sei invitato di tua iniziativa, tocca a te vedere come lo tratti. Oh, mi basta che tu sia gentile con lui e mi dia una mano per la torta. Se si attacca mi avverti, eh? Disse Joe un poco impermalita. Sì, ma non me ne intendo molto nemmeno io. So fare solo il pane e qualche altra cosa da poco. Dovresti chiedere consiglio alla mamma prima di ordinare la roba. Rispose Meg prudente. Oh, questo si intende, non sono poi tanto scema. E Joe uscì, arrabbiata per i dubbi espressi dalla sorella sulla sua capacità. Prendi quello che vuoi e lasciami in pace. Io sono a pranzo fuori e non posso darmi pensiero di quello che fate voi a casa. Tale fu la risposta della signora March quando Joe si rivolse a lei. Le faccende di casa non mi sono mai piaciute molto e oggi mi voglio prendere una vacanza. Leggere, scrivere, far visite e divertirmi. A Joe? Lo spettacolo insolito di sua madre, che era sempre così attiva e ora si dondolava comodamente sulla sedia a bilico a leggere in quell'ora mattutina, fece l'effetto di uno dei grandi spettacoli della natura. Un'eclisse, un terremoto, un'eruzione vulcanica non l'avrebbero sorpresa di più. Oh, oggi è tutto fuori squadra, diceva a se stessa mentre scendeva le scale. Beth che piange, segno sicuro che c'è qualcosa che non va in famiglia. Se mi fa la seccante e non la smette, mi sentirà. Fuori di squadra lei stessa, Joe tornò in fretta nel salotto. Beth piangeva davvero perché aveva trovato Pip, il canarino, stecchito nella sua gabbia con le povere zampine stese come a implorare il becchime. Era morto di fame. Tutta colpa mia, me lo sono scordato. Non c'è un grano di miglio, non c'è una goccia d'acqua nello scodellino. Oh, Pip, che cattiva sono stata, piangeva Beth, tenendo la povera creaturina in mano e cercando vanamente di richiamarla in vita. Joe lo guardò negli occhietti semiaperti, sentì il cuoricino, non batteva più. Pip era freddo e rigido. Joe scosse il capo e offerse per feretro la scatola del suo domino. Mettilo nel forno, col caldo forse riprendi i sensi, disse Amy ottimista. Già, è morto di fame e adesso lo dovrei arrostire? No, no, gli faccio il sudario e lo seppelliremo nella sua tomba. E poi non terrò mai più uccellini, mai. Povero Pip, non me li merito, sono stata troppo cattiva, mormorava Beth, seduta sul pavimento con il cadaverino fra le mani. Il funerale si farà nel pomeriggio, ci verremo tutte. Non piangere, Bettina. È doloroso, ma questa è una settimana che ogni cosa va di traverso. Pip ci è andato di mezzo peggio di tutti. Faglielo il sudario e mettilo nella mia scatola. Dopo il pranzo gli faremo il suo piccolo funerale a dovere, disse Joe. Le pareva in certo modo di aver fatto anche troppo e lasciò le altre a consolare Beth. In cucina regnava la confusione più deplorevole. Joe indossò un ampio grembiule e si mise all'opera. Cominciò col preparare la pila dei piatti da lavare. Si accorse che il fuoco era però spento. Che delizia! Borbottò spalancando con violenza lo sportello della cucina di ghisa e attizzando vigorosamente. Ravvivato il fuoco, pensò che le conveniva andare al mercato mentre l'acqua si scaldava. La passeggiata le risollevò il morale. Convinta di aver fatto bene le sue spese, tornò a casa dopo essersi caricata anche di un'aragosta molto giovane, di un mazzo di asparagi molto vecchi e due scatole di fragole ancora acerbe. Quando ebbe deposto ogni cosa, l'ora di pranzo era arrivata e la cucina era rovente. Anna aveva lasciato il pane da far crescere e Meg l'aveva messo sul focolare la mattina e poi di nuovo per farlo crescere ancora. Dopodiché se n'era dimenticata e in quel momento stava ricevendo una visita, Sally Gardiner, nel salotto. La porta si spalancò e apparve una faccia infarinata e sporca, infiammata, scapigliata e arrabbiata, che domandava: «Di un po', Meg, quando trabocca fuori delle forme è cresciuto abbastanza il pane?» Sally si mise a ridere. Ma Meg fece di sì col capo e levò le sopracciglia in alto quanto poteva, il massimo della disapprovazione. A tal vista l'apparizione della porta si dileguò e il pane inacidito andò a finire dentro il forno d'urgenza. La signora March usciva in quel momento. Dopo aver dato un'occhiata qua e là per vedere come andavano le cose, disse una parola di conforto a Beth che stava facendo il sudario per il caro istinto, intanto solennemente adagiato nella scatola del domino. Una strana sensazione di sgomento si impadronì delle quattro ragazze quando videro sparire dietro l'angolo il cappello grigio della madre. Lo sgomento divenne addirittura disperazione pochi minuti dopo, quando comparve Miss Crocker annunziando che veniva a pranzare con loro. Era una zitellona in carta pecorita, col naso a punta e gli occhi che frugavano dappertutto. Osservava ogni cosa e poi andava a raccontare. Le ragazze non la potevano soffrire, ma la mamma voleva che la trattassero con gentilezza perché era vecchia, povera e quasi senza amici. Meg perciò le offrì il seggiolone e cercò di tenerle compagnia, mentre l'ospite faceva mille domande, trovava da ridire su ogni cosa e raccontava i fatti di tutta la gente che conosceva. L'ansietà, gli incidenti e le fatiche della povera Jo in quella mattinata non si possono raccontare. Il pranzo che ne venne fuori dovevano poi ricordarselo per sempre con viva ilarità. Non osando più chiedere consiglio ad altri, Jo fece quel che poteva da sola. E allora scoprì che per fare il cuoco ci vuole qualcosa di più che energia e buona volontà. Gli asparagi, dopo aver bollito un'ora, diventarono duri. Continuando a bollire, le punte si spappolarono e i gambi divennero più duri ancora. Il pane si era carbonizzato perché l'operazione di condire l'insalata la fece arrabbiare tanto che non si occupò d'altro, e quel pane non ci fu più modo di renderlo mangiabile. Dal mistero scarlatto del guscio dell'aragosta, schiaccia e fruga tirò fuori in tutto una mestolata di roba che scompariva dentro un ciuffo di foglie di lattuga. Le patate le dove tirar fuori presto perché gli asparagi avevano bollito anche troppo e perciò erano crude. La panna era tutta grumi e le fragole immature erano state abilmente truccate dal fruttivendolo. Beh, se hanno fame mangeranno carne, pane e burro. È brutto però aver speso tutta la mattinata per concludere niente, pensava Joe mentre suonava il campanello con mezz'ora di ritardo sull'orario e, accesa in volto, stanca e avvilita, contemplava la tavola apparecchiata per Lori, che era avvezzo a ogni eleganza, e per Miss Crocker, al cui sguardo curioso non sfuggiva nulla e che poi con la sua linguaccia andava a dir tutto ai quattro venti. La povera Joe avrebbe voluto nascondersi sotto la tavola. Una dopo l'altra, le sue produzioni culinarie venivano assaggiate e lasciate lì. E mi sghignazzava. Meg era disperata. La signorina Crocker faceva il broncio e Lori chiacchierava e rideva rumorosamente per dare un po' di vita alla scena. Joe contava molto sulle frutta, le aveva inzuccherate bene e aveva preparato la panna per mangiarle insieme. Ella rifiatò un poco quando vide girare i bei piattini di vetro e tutti gli occhi si posarono sorridenti sulle graziose isolette color di rosa galleggianti nel mare della panna. La prima ad assaggiare fu Miss Crocker e subito fece una smorfia e si affrettò a bere un sorso d'acqua. Joe, che non ne aveva preso perché temeva non ce ne fosse abbastanza, dato che dopo la scelta si erano ridotte in una maniera impressionante, diede un'occhiata a Lori. Ma Lori tirava innanzi a mangiare eroicamente, sebbene anche lui con una lieve smorfia, senza levare gli occhi dal piatto. Amy, a cui piacevano le leccornie, si mise in bocca una cucchiaiata ben colma di panna, ma subito si fermò come se la strozzasse, nascose la faccia nel tovagliolo e lasciò la tavola precipitosamente. «Cos'è stato?» esclamò Joe tremando. «Il sale invece dello zucchero e la panna è guasta!» rispose Meg con un gesto tragico. Joe ebbe un gemito e cadde all'indietro nella seggiola. Ora si ricordava. Nella fretta dell'ultimo istante aveva sparso sulle fragole una manata del contenuto di una delle due scatole che stavano sopra la tavola d'in cucina e si era anche scordata di mettere il latte in ghiacciaia. Rossa come il fuoco, fu lì lì per piangere, ma i suoi occhi si incontrarono con quelli di Lori, il quale non riusciva a tenere il riso. Allora rise anche lei fino alle lacrime. Risero tutte, anche la cornacchia, come le ragazze chiamavano la signorina Crocker, e il malaugurato pranzo terminò allegramente con pane e burro, olive e risate. Mentre si levavano da tavola, Joe disse che in quel momento non si sentiva la testa a posto che ci voleva per sparecchiare. Per ritrovare un po' di serietà faremo il funerale. La signorina Crocker si preparò ad andarsene. Aveva una gran fretta di correre a raccontare la storia fresca fresca, naturalmente alla tavola di altri amici. Serie ad ogni modo diventarono per riguardo a Beth. Lori scavò la fossa sotto le felci nel boschetto e il piccolo Pip vi fu deposto con molte lacrime dalla tenera padroncina e quindi ricoperto col musco. Una corona di violette e di candido centocchio venne appesa alla pietra che portava scolpita un'iscrizione composta da Joe mentre era alle prese col pranzo. Qui giace Pip March, morto il 7 di giugno, sempre amato, con pianto indimenticabile. Finita la cerimonia, Beth si ritirò in camera da letto, oppressa dall'emozione e dall'aragosta, ma non vi trovò al riposo perché i letti non erano rifatti. Ella sfogò il suo dolore battendo i cuscini per sprimacciarli e mettendo un po' d'ordine. Meg aiutò a rimuovere i resti del banchetto, faccenda che portò via metà del pomeriggio, lasciandole così stanche che di comune accordo stabilirono di accontentarsi per cena di tè e crostini. Lori condusse Amy a fare una trottata e fu un atto di carità perché la panna inacidita aveva avuto un pessimo effetto sui suoi nervi, rendendola insopportabile. La signora March, quando ritornò a casa, trovò le tre figliuole più grandi intente a lavorare sodo nel pomeriggio inoltrato. Un'occhiata nella dispensa le diede un'idea della riuscita di quella parte dell'esperimento. Prima che le piccole massaie potessero concedersi un po' di riposo, vennero parecchie visite e in fretta e furia bisognò rendersi presentabili e preparare il tè e fare qualche cosa. C'era anche da dare qualche punto che fu rinviato all'ultimo minuto. Quando cadde la sera, umida e silenziosa, si riunirono stanche e malcontente sotto la loggia, ove in primavera fiorivano rigogliose le rose di giugno. E mentre si sedevano, ciascuna si lamentava e sospirava. «Che giornata terribile!» osservò Joe, che era sempre la prima a parlare. «Più corta del solito, ma anche più brutta», disse Meg. «Non è più la nostra casa», soggiunse Amy. «Come vuoi che sia senza la mamma e senza il povero Pip?» sospirò Beth, guardando con gli occhi gonfi la gabbia vuota al di sopra della sua testa. «Oh, la mamma eccola qui, e domani avrai un altro uccellino se lo vuoi!» Così dicendo, la signora March venne a sedersi fra loro, con l'aria di non aver passato una giornata molto bella nemmeno lei. «Siete soddisfatte dell'esperimento, ragazze, o ne volete un'altra settimana?» Ella chiese mentre Beth veniva a gettarlesi in grembo e le altre si volgevano a lei col volto rischiarato come i fiori verso il sole. «Io no!» esclamò pronta Joe. «Nemmeno io!» fecero eco le altre. «Dunque siete persuase che è meglio avere qualche dovere da compiere e vivere un poco per gli altri? È vero?» «Oh, il dolce far niente non vale nulla!» osservò Joe scuotendo il capo. «Io ne sono stufa e mi voglio mettere subito a fare qualcosa!» Beh, se tu imparassi per esempio un po' di cucina casalinga, è un'arte utile che ogni donna dovrebbe possedere, disse la mamma. Rideva ancora di gusto nel ricordare il racconto del pranzo di Joe che aveva udito da Miss Crocker incontrata per via. Di la verità, mamma, esclamò Meg, che fin dal mattino era in sospetto. Tu l'hai fatto apposta di lasciarci sole per vedere come ci sbrigavamo. Eh sì, volevo che vi accorgeste che per il benessere di tutti bisogna che ciascuno faccia coscienziosamente la sua parte. Finché la vostra l'abbiamo fatta Anna ed io, alla meglio andavate innanzi, non tanto contente, no, e di un umore non tanto trattabile. Allora ho pensato, per darvi una lezioncina, di farvi vedere cosa avviene quando ognuno non pensa che a sé. Non vi pare meglio aiutarci fra noi? Avere tutti i giorni da compiere qualche dovere che fa più bello il riposo quando è l'ora? E sopportare e aver pazienza finché la casa sia bella e comoda per tutte? Oh sì, mamma, sì! Esclamarono in coro le ragazze. Allora, seguite il mio consiglio e riprendete ciascuna la sua piccola somma. Vi parrà greve qualche volta, ma fa bene, e più si impara a portarla, più diventa leggera. Il lavoro è salute e ce n'è tanto per tutti, ci salva dalla noia e dal fare del male. È salute anche per lo spirito, ci dà un senso di capacità e di indipendenza che va al meglio della ricchezza e della vita elegante. Lavoreremo come le api e di gusto, vedrai, mamma, disse Joe. Io imparerò la cucina di casa, sarà il mio compito per le vacanze. Il prossimo pranzo che preparerò io, vedrai come riuscirà bene. Io voglio fare quelle camicie al babbo, disse Meg, invece di lasciarle fare a te, mamma. Le so fare e le farò. Cucire non mi piace tanto, ma sarà sempre meglio far le camicie che andare a tormentare la mia roba, che sta abbastanza bene com'è. Io studierò e farò i compiti tutti i giorni, disse Beth, invece di sciupare tanto tempo con la musica e le bambole. Sono proprio una stupidella a giocare sempre invece di studiare. Ultima di tutte, Amy, seguì l'esempio dichiarando eroicamente: imparerò a fare le asole e l'analisi grammaticale. Benissimo. Quando è così, io sono contenta dell'esperimento e non credo che ci sarà bisogno di ripeterlo. Solamente non andate all'estremo opposto adesso, non vi mettete a sgobbare come schiave. Abbiate delle ore regolari per il lavoro e per lo svago. Fate che ogni giornata riesca insieme utile e piacevole. Mostrate, impiegando bene il tempo, che ne capite il valore. Così la gioventù è bella. La vecchiaia non porta seco troppi rimpianti e la vita diventa un bel successo, anche se si è poveri. Ce lo terremo a mente, mamma, e se lo tennero a mente davvero.